Sezione 6 di Nuove o di Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Marianara. Saluto italico. Molosso ringhia, o antichi versi italici, ch'io col batter del dito seguo e richiamo i numeri vostri dispersi, come api che al rauco suon del percosso rame ronzando si raccolgono. Ma voi volate dal mio cuor, come aquile giovinette dal nido alpestre ai primi zefiri. Volate, ed anzi interrogate il murmure che giù per l'Arpi Giulia, che giù per l'Arpi Retiche, dai verdi fondi i fiumi ai venti mandano, grave d'epici sdegni, fiero di canti eroici. Passa come un sospir sul garda argenteo e pianto d'aquileia su per le solitudini. Odono i morti di Bezzecca e attendono. «Quando?» grida Bronzetti, fantasma erto fra i nuvoli. «Quando?» i vecchi fra sé mesti ripetono, che un dì con nere chiome l'addio, Trento, ti dissero. «Quando?» fremono i giovani che videro pur ieri da San Giusto ridere Glauco Ladria. O al bel mar di Trieste, ai poggi, agli animi volate col nuovo anno, antichi versi italici. Per Aida il sol, che San Petronio in porpora volate di San Giusto sovra i romani ruderi. Salutate nel golfo Giustinopoli, gemma dell'Istria, e il verde porto e il leon di Muggia. Salutate il divin riso dell'Adria, fin dove Pola i templi ostenta a Roma e a Cesare. Poi presso l'Urna, ove ancor fra due popoli Wilkerman guarda, araldo dell'arte e della gloria, in faccia allo stranier che armato accampasi sul nostro suol, cantate Italia! Italia! Italia! Fine della sezione 6. Registrazione di Marzia Marianara.